Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, eccoci qua. Prima di tutto conosciamo i nostri ascoltatori che fanno i giurati, si prestano a fare da giurati e giudicare i progetti di crowdfunding. Cominciamo con Alvaro da Roma che ha chiamato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Anche per intervenire sull'altro argomento. Alvaro, chi vorresti mandare a Sanremo? Beh, io guarda, visto come sono andate le cose, una cosa vorrei dire, prima di tutto smettiamo di fare tutta questa grande polemica, perché chi parla è gente che non ha mai lavorato, secondo me non si rende conto delle difficoltà che sono andate incontro in termini così brevi, tra l'altro in due ore, due mesi di nevole, vedere quale cioè quale chi fa le polemiche sui soccorsi, vuoi basta dire. basta finirla. Cerchiamo di rallegrarci per tutte le persone. C'è un'inchiesta che però, c'è un'inchiesta su, non sì, tanto sui soccorsi quanto sui ritardi, infatti, lasciate che l'inchiesta vada avanti, ma lasciate lavorare la gente. Chi manderesti a Sanremo, Alvaro? Io guarda, visto tutte le considerazioni e tutto quello che è successo, una serie di casualità, e non meglio del papà e tutta la famiglia che è riuscita a salvarsi e poi alla fine si è riunita, il papà che esce perché non deve prendere la medicina, si salva, certo. E ha la possibilità di avvisare tutti quanti gli altri, quindi racchiude un po' tutta quella che è il fato che la storia, la storia di Giampiero Parete e famiglia, tutti salvi. Lui era rimasto fuori dall'albergo, poi si è quasi congelato, è stato ricoverato, ha lanciato l'allarme, sono stati salvati anche la moglie e i due figli. Alvaro, resta con noi, resta concentrato, tra poco presenteremo i due progetti, presentiamo però anche Giovanni che chiama da Bari. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Anche tu volevi fare un intervento sulla questione dei treni in questo caso? Sì. Treni, pendolari, aumenti esagerati, siamo partiti qua stamattina. Allora, sì, niente, io mi ricordo, perché ho 48 anni, che già in passato si usava questa tattica, sì. Ovvero lei deve sapere che l'inflazione viene decisa in base a un paniere di beni, possono certo. essere le cipolle, possono essere i computer, può essere il costo delle macchine, e tra questi beni c'è anche la Roma-Milano, la tratta Roma-Milano in treno. Allora cosa succede? E cosa succedeva negli anni passati? La tratta Roma-Milano rimaneva invariata come costo per i tre anni in cui era all'interno del paniere dell'inflazione. Poi, e quindi l'inflazione rimaneva. Basta. Poi usciva e la cosa aumentava. Poi, esatto, lo uscivano per un anno, la tiravano fuori per un anno, sì. La facevano aumentare del 40%, però non era nel paniere. Giovanni, lei è un esperto di paniere Istat, interessante questo. La sua è un punto di vista interessante, questo, diciamo, una manipolazione del paniere per consentire aumenti di tariffe e non farli risultare nell'inflazione. Comunque qua hanno fatto tre aumenti nel giro di un anno e mezzo, quindi da qualche parte dovranno rientrare. Esatto. Va bene Giovanni, comunque ha fatto bene a sottolineare questa possibile incongruenza. Anche lei resti concentrato, l'altro giurato è Sandra dalla provincia di Milano. Buongiorno, ben ritrovata, l'abbiamo già sentita prima. Buongiorno. Eccola qua. Allora, iniziamo con la presentazione dei due progetti, vai. Allora, ce l'abbiamo la base? Tac, eccola qua. Il primo progetto si chiama Sostieni un paziente a distanza, è un progetto di solidarietà perché è ideato da un gruppo di giovani psicologi di Messina che si propongono di fornire un sostegno psicologico alle persone meno abbienti, uno psicologo per i più poveri. Il traguardo da raggiungere è 2.000 euro che serviranno per garantire il supporto psicologico individuale a cadenza settimanale e l'organizzazione di laboratori espressivi di gruppo. Ce ne parla Fabrizia Strangio dell'associazione Sostieni un paziente a distanza. Buongiorno, benvenuta. Eccomi, buongiorno a tutti, salve. Eccola buongiorno. Qua Fabrizia, bella pimpante, un minuto o poco più per spiegarci perché possiamo e dobbiamo sostenere questo progetto. Sì, ok, allora Sostieni un paziente a distanza, quindi è un progetto che nasce a seguito di un'esperienza di tirocinio post laurea di un gruppo di giovani psicologi svolto presso il laboratorio Vicolo Cicala qui di Messina. Il progetto, come diceva anche lei, si rivolge alle persone in stato di difficoltà psichica e sociale, si pone l'obiettivo da un lato di dare la possibilità quindi agli individui meno abbienti, alle fasce socio-economiche più svantaggiate, di usufruire della cura psicologica, dall'altro dà anche la possibilità ai giovani psicologi di poter lavorare nel proprio settore, prevenendo quindi la disoccupazione o la sottoccupazione, argomento ecco molto caldo al giorno d'oggi. Inoltre la nostra idea ricopre un ruolo interessante anche da un punto di vista culturale e preventivo. Infatti promuovere questa cultura della cura psicologica accessibile a tutti si può tradurre in un miglioramento culturale a vantaggio della collettività. Siamo partiti da un dato di fatto, ovvero che la richiesta di supporto psicologico è sempre in aumento. In un qualche modo né il settore pubblico, che ha delle defaianze, nel settore privato riescono ad accoglierla spesso e volentieri, e quindi siamo entrati noi a gamba tesa in questa scena. Perciò benissimo, un aiuto, sostenete anche voi un paziente a distanza. Bene. Mi sembra ottimo, soprattutto per porre l'accento su un problema del quale si parla poco, che in questi anni di crisi giustamente ci si occupa dei bisogni primari, però le cure psicologiche, ovvero i meno abbienti che non hanno la possibilità di andare dallo psicologo, di avere delle cure psicologiche, in realtà sono un problema gigantesco, certo. Giusto? Ci sono anche dei dati su questo, per esempio, che riguardano anche i bambini. Save the Children è uscito con dei dati poco tempo fa su questo. Sì, abbiamo i dati di Save the Children, sì, in Italia più di un bambino e quasi una famiglia su 10 sono in condizioni di povertà assoluta. Nel 2014 a livello nazionale ci sono stati 9.924 ricoveri di adolescenti nella fascia 14-18. Quindi, è un bisogno primario, mi permetto di dire. Condivido in pieno che sia grazie, un bisogno primario. Fabrizia Strangio, benissimo. E adesso invece andiamo a presentare il secondo progetto. Al liceo Tushek di Grottaferrata, 20 ragazzi, siamo in provincia di Roma, sognano di costruire 2 robot e di partecipare al Rom Cup 2017, un grande evento di robotica che culminerà con una competizione calcistica riservata ai robot. La scuola ovviamente da sola non riesce a fornire l'acquisto dei componenti e dei materiali necessari alla costruzione dei robot, e per questo i ragazzi hanno deciso di intraprendere la via del crowdfunding. Il loro obiettivo è raccogliere almeno 1.100 euro. E non sono moltissimi, speriamo che ce la facciano anche loro, come tutti naturalmente. Sentiamo Alessandro Massari, uno dei giovani progettisti. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, anche a te un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché sostenere questo progetto. Allora, innanzitutto il progetto prevede, come dicevate voi, la costruzione di 2 robot. Con questi 2 robot noi non ci vogliamo fermare qui, ma vogliamo anche investire nel nostro futuro, poiché abbiamo riscontrato come nel mondo del lavoro sia necessario possedere delle conoscenze sul mondo della robotica e sulle nuove tecnologie che sono estremamente attuali al giorno d'oggi, e pertanto vogliamo anche lasciare un'eredità ai futuri studenti e prepararci ad affrontare il mondo del lavoro in maniera migliore. Però nella costruzione di 2 robot abbiamo, e quindi nel portare avanti questo progetto, abbiamo riscontrato varie difficoltà, quali la mancanza di strumenti di un laboratorio adeguato, la mancanza di conoscenze e la mancanza di fondi. Fortunatamente abbiamo riscontrato il parere positivo del dirigente scolastico e abbiamo, grazie alla dedizione, alla passione, alla nostra voglia di fare, forse anche al fatto che siamo molto giovani, siamo riusciti a sorpassare tutti gli ostacoli che ci sono posti davanti, quindi burocrazia, oppure appunto la mancanza di conoscenze, visto che siamo un liceo scientifico, e anche la mancanza di fondi grazie al crowdfunding che stiamo usando sopra appunto la piattaforma DFL. Pertanto vi invito a sostenerci bene, in maniera che possiamo raggiungere il vostro obiettivo. È benissimo. Alessandro, grazie anche a te. Cari giurati, a questo punto è il momento di decidere, di farci sapere per cosa propendete. Alvaro da Roma, quali 2 progetti? Psicologi contro robot. Guarda, il caso vuole che io ho chiamato da Grottaferrata, quindi io non lo sapevo che c'era questo progetto, quindi ovviamente, anche se condivido moltissimo il primo progetto della psicologia a domicilio, sono costretto a votare Grottaferrata per motivi di appartenenza, anche perché ho avuto i figli che sono andati a quella scuola, ho piantato degli alberi all'interno di quella scuola, quindi non fantastico. Posso che... Caramba, abbiamo fatto caramba con Alvaro, e quindi non poteva che, per motivi di campanile, che votare per il progetto del liceo Tushek. Andiamo con invece Giovanni da Bari. Giovanni. Anche io voto per i ragazzi. Per la scuola. Perché? È bello vedere dei ragazzi che si impegnano concretamente oltre quello che è il loro obbligo scolastico, e quindi pensano anche al loro futuro, a come investire le loro energie, e quindi per me vanno finanziati a prescindere. Andrebbero proprio... Sulla fiducia, dice Giovanni. Sì, va sì, bene. Sì, sì. Sentiamo anche Sandra invece, che ci chiama dalla provincia di Milano. Guardi, il paziente a distanza, voto per loro. Paziente a distanza, quindi un psicologo anche per i più poveri. E così abbiamo in parte riequilibrato, 2-1 però vince il liceo Tushek con il suo progetto per partecipare alla Rom Cup. Complimenti a voi, ma naturalmente complimenti anche al paziente a distanza. Grazie. Grazie a Fabrizia Strage e Alessandro Massari. Entrambi i progetti restano, rimangono, ci sono sulla piattaforma di Apple, quindi non è che uno vince e l'altro perde. Andateli a cercare anche sul sito di Radio 24, la pagina di Si può fare. Grazie a voi per essere stati con noi. Noi torniamo tra pochissimo dopo il traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.